Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telespro. Il soundcheck di oggi vuole celebrare la figura ormai leggendaria di Stevie Wonder, uno dei più apprezzati vocalist, cantanti, musicisti, eccellente polistrumentista, meraviglioso compositore che ha fatto la storia della black music. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo e sì, oggi sono felicissimo perché posso riascoltare e posso parlare di uno dei miei eroi, Stevie Wonder. Il successo di Stevie Wonder come polistrumentista, interprete con una profonda coscienza sociale ha significativamente influenzato l'R&B ma anche la pop music. Ecco, per valutarne l'importanza basta considerare il fatto che le sue composizioni sono tra le più riproposte come cover dai maggiori cantanti e musicisti internazionali, sia di estrazione black, ovvero musicisti che vengono dal rhythm blues, dal soul, dal funk, ma mi sembra una cosa naturale, ma anche artisti più rock e pop celebrano con le loro produzioni discografiche le composizioni e le canzoni di Stevie Wonder, e sono numerosissimi gli artisti che proprio citano Stevie Wonder come uno dei loro maggiori ispiratori. Fra questi sicuramente Michael Jackson, con il quale Stevie Wonder ha più volte collaborato nell'arco della sua carriera, ma anche Prince, il giovanissimo Justin Bieber, c'è Alicia Keys e anche musicisti, come dicevo, che hanno un'estrazione diversa, a partire da Sting fino ai Red Hot Chili Peppers. Il signor Stevie Wonder, che oggi ha 63 anni suonati e praticamente 50 anni di carriera, visto che ha iniziato a suonare il pianoforte e l'armonica all'età di 4 anni e a 10 anni calcava già le scene nei palcoscenici americani, ha vinto nella sua carriera praticamente di tutto. Ben 25 Grammy Award, un Oscar anche per la colonna sonora del film The Woman in Red con I Just Want to Say I Love You, e nell'89 viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, che celebra i più importanti compositori della storia del songbook americano, ma poi anche un premio importantissimo come artista del secolo da parte del Billboard Music Award. Che altro dire di Stevie Wonder se non ascoltare uno dei primi grandi successi, 1970, un brano importantissimo per tutti gli afroamericani. Il brano si intitola Sign, Seal, Delivered. Stevie Wonder, protagonista del soundcheck di Radio 24. Uno dei primi successi di Stevie Wonder che oggi celebriamo qui al soundcheck di Radio 24, musicista che ha lavorato per anni per la famosa etichetta Motown, alla quale ha regalato tantissime soddisfazioni. Dicevamo prima, tanti Grammy Award. Il primo Grammy Award vinto da Stevie Wonder è stato proprio nel 73 con il singolo Superstition, bissato poi dal Grammy Award ottenuto per la miglior performance vocale con You Are the Sunshine of My Life, e poi album dell'anno sempre negli anni 70 con la realizzazione di Inner Visions. Ecco, il periodo più florido della carriera di Stevie Wonder si concentra in quello che viene chiamato il periodo classico, quindi quello che va fra il 1970 e il 1976, con la realizzazione di 5 album bellissimi, fra i quali, come dicevo, Inner Visions e poi Songs in the Key of Life, in cui estrinseca proprio la sua visione della dell'amore e della vita nei confronti dell'uomo, dell'umanità e di Dio. Ecco, questi album sono considerati delle pietre miliari della musica internazionale e sicuramente punto di riferimento per la maggior parte degli artisti contemporanei. Stevie Wonder viene celebrato oggi qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Worry About The Thing, brano tratto dall'album capolavoro del 1973 Inner Visions, che segna la svolta della carriera di Stevie Wonder proprio perché firma un nuovo contratto con la Motown, ottenendo il 100% del controllo delle sue royalties discografiche, ovvero le percentuali sulle vendite, riuscendo così a ottenere libertà di azione. Esprime se stesso, suona se stesso, anzi suona tutto lui, perché Inner Visions praticamente è un album realizzato da Stevie Wonder che suona tutti gli strumenti, qua e là troviamo la partecipazione di qualche musicista. In questo modo è libero di imporre la sua personalità musicale a 360 gradi. Rinnova in modo profondo il linguaggio della musica nera, l'uso dei bassi synth, del clavinet e ancora l'utilizzo dei sintetizzatori che vengono utilizzati proprio per creare degli intrecci contrappuntistici e melodici, come se si trattasse proprio di sezioni di archi o di fiati, l'utilizzo del sistema multitraccia, della sovrincisione con più voci che fanno le parti da solista. Ecco, questi sono solo alcuni degli elementi distintivi delle innovazioni stilistiche ascrivibili a Stevie Wonder e che da allora diventano proprio oggetto di culto e di studio. Stevie Wonder al Soundcheck di Radio 24, presente con Living for the City. A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, stiamo raccontando la figura di grandissima caratura artistica del meraviglioso Stevie Wonder, che quindi nel periodo degli anni 70 ottiene successo, popolarità, ma è anche il periodo più fertile per quanto riguarda la creatività. Sì, perché approdiamo negli anni 80 in quello che viene considerato il periodo commerciale, cioè un periodo volto più a conquistare i posti alti nelle classifiche discografiche mondiali che a creare dei concept album, così come aveva fatto negli anni 70, e anche il suo suono si modifica, diventando un sound più pop, un po' più lontano da quella venatura blues, gospel, da quel sapore funk e R&B che aveva proposto anche in Songs of the Key of Life, che è un album capolavoro con il quale vince il Grammy Award. Comunque nell'89 Stevie Wonder entra nella Rock and Roll Hall of Fame e il suo grande ritorno sulla scena internazionale coincide con la pubblicazione dell'album A Time to Love nel 2005. Stevie Wonder però in questo periodo collabora con artisti meravigliosi, abbiamo già detto, da Michael Jackson a Quincy Jones fino a Herbie Hancock. Con Herbie Hancock si era già incontrato per la realizzazione di Songs in the Key of Life, e lo stesso Herbie Hancock ospita Stevie Wonder per la produzione di una versione contemporanea di un classico del jazz tradizionale scritto da William Christopher Andy, ovvero St. Louis Blues. Herbie Hancock e Stevie Wonder con la sua armonica, ecco, non possiamo dimenticare che è un campione di stile con la sua armonica a bocca, qui al Soundcheck di Radio 24. meraviglia Herbie Hancock qui con Stevie Wonder, voce e armonica in questa versione di St. Louis Blues. E chiudiamo con un altro album di successo, quello del 2005, Time to Love, dove spicca questa composizione che ci riporta un po' indietro nel tempo al periodo d'oro degli anni 70 di questo campione di vocalità, questo grandissimo musicista e compositore. Il brano si intitola From the Bottom of My Heart e quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi. Ci risentiamo domani alla solita ora, sempre qui su Radio 24. A tutti voi buon pomeriggio da Giorgio Telespo. Check. Il suono della musica.